ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo sole, va sempre più giù. Benvenuti a Dedicato! Allora, oggi parliamo assolutamente di un argomento che interessa in particolar modo lo staff di Dedicato, perché parliamo delle produzioni di spettacoli e quindi della tournée estiva che abbiamo fatto quest'estate. Ovviamente lo staff di Dedicato era presente, quindi comunque abbiamo documentato tutta una serie di passaggi importantissimi di questi spettacoli, che sono spettacoli diversi, molto complicati, dico già, ve lo anticipo, perché come ci racconteranno poi i protagonisti di questi spettacoli, sono veramente di storie diverse, provenienze diverse, motivazioni diverse, perché ogni spettacolo ha una sua motivazione nell'andare in scena, quindi insomma è veramente, sono storie intrecciate da una presenza comune in questi tre spettacoli, che è il compositore delle musiche, Alessandro Meacci, che è un caro amico di Dedicato, ma insomma anche collaboratore, ci conosciamo veramente da tempo, e Alessandro ha scritto le musiche di questi tre spettacoli e ha riunito quindi un grande cast, che cambia ovviamente per ogni spettacolo, ma una grande compagnia che si è mossa in giro per l'Italia durante l'estate 2025. Quindi tre titoli, tre spettacoli, tre messe in scena. Sono veramente quasi anche impacciata un pochino al parlarne, perché io ho seguito la regia di tutti e tre gli spettacoli, ma non solo, in uno di questi ero anche in scena, quindi insomma è stata veramente un'estate movimentata e sono un po' impacciata nel parlarne, perché non voglio sembrare troppo autoreferenziale, però devo dire che questo argomento insomma ce l'avevo un po' sulla punta della lingua già da dopo l'estate, perché vale la pena parlarne. Parliamo quindi di questi tre spettacoli, che sono Carmen Jazz Fantasy, che è andato in scena a Catanzaro alla fine di agosto. Poi siamo su un altro spettacolo altrettanto interessante, andato in scena a Palestrina, sempre alla fine di agosto, subito dopo Carmen, che è Stupor Mundi, con un testo meraviglioso scritto da Valerio Vicari e le musiche appunto di Alessandro Meacci, come in Carmen, che aveva arrangiato le musiche di Bizet. E poi, non per ultima, anche se è andata in scena per ultima, c'è Cleopatra. Cleopatra è un'opera lirica, sempre con le musiche di Alessandro Meacci, il libretto di Marco Maria Tosolini, un altro caro amico che salutiamo, e insomma una produzione enorme, perché un'opera lirica ha intorno a sé un entourage di persone e di menti che ragionano veramente enorme. Quindi io adesso lascio la parola ad Alessandro Meacci e poi dopo andiamo nello specifico ad ascoltare e a vedere un pochettino cosa sono questi tre spettacoli. Amici di Dedicato, buonasera, felicissimo di tornare a parlare della mia musica nel teatro musicale qui da voi. È ormai un appuntamento consueto che con l'amica Erika Salbego condividiamo e portiamo avanti, quindi davvero è un piacere raccontare un tour che è iniziato ad agosto con un primo spettacolo teatrale, con la sua regia e anche la sua partecipazione vocale e attoriale, e abbiamo raccontato il destino di Carmen, che viene insieme a un'altra gitana musicista espressa in una pièce di teatro in occasione dei 150 anni della morte di Georges Bizet, e che abbiamo fatto per il Festival d'autunno con grande consenso di pubblico. Entrambe le date erano sold out, quindi non possiamo che non ringraziare il Festival d'autunno, che ormai ci è amico e che promuove le iniziative di teatro musicale, che sono spesso erano sempre meno presenti, che invece oggi sentiamo, intuiamo che nel panorama musicale italiano possano tornare a gran voce. E con Carmen poi siamo passati da una Spagna gitana siamo arrivati alla nostra Italia di Federico II, forse il primo grande uomo universale abitato su questo nostro territorio e che abbiamo raccontato e che ho musicato in una bellissima storia teatrale, una pièce di teatro scritta da Valerio Vicari e che appunto racconta come squarcio di tempo fra passato e presente il destino dello Stupor Mundi. Andata in scena al Museo Nazionale Archeologico di Palestrina, grande emozione, anche lì grande consenso di pubblico, due sold out nelle sere del 26 e del 27 agosto di quest'anno, e abbiamo proseguito poi a Roma nel Festival di Tormarancio di Roma Tre Orchestra, che ovviamente ha dato un enorme contributo con tutti i musicisti eccellenti, con le mie musiche, il cast realizzato e costruito da Erika Salbego, e questo cammino poi è sconfinato a sud con un'opera lirica realizzata da me e tanto tanto attesa, Cleopatra, finalmente ha preso il via. Due teatri, il Teatro Politeama di Catanzaro, ancora una volta il prezioso contributo culturale, economico e umano del Festival d'Autunno e il sempre presente ente Roma Tre Orchestra con il Teatro Palladium, quindi davvero due date attesissime che sono andate nel migliore dei modi, la regia di Erika Salbego, la presenza di un cast vocale di giovani che hanno dato tutto perché questo potesse accadere. Un'opera lirica che segna il tempo, è stata profondamente recensita, quindi ne sono e ne siamo tutti, come dicevo anche nelle varie conferenze stampa, enormemente felici che sia un progetto di squadra che riattiva il Made in Italy, che introduce la scienza all'interno di un volano lirico che altrimenti sarebbe oggi un linguaggio sterile. E ringrazio voi amici di Dedicato che appunto avete dedicato e continuate a farlo uno spazio così importante e attento al teatro musicale, alla nuova musica, alle nuove produzioni, alla creatività in generale. E saluto e abbraccio l'amica Erika Salbego. Grazie Alessandro per il tuo contributo. Allora, adesso andiamo ad ascoltare un estratto di Carmen Jazz Fantasy, che è andato in scena per l'appunto a Squillace e a Borgia, in provincia di Catanzaro, per il Festival d'Autunno. Le anteprime del festival, nel mese di agosto, hanno visto diversi spettacoli e performance molto interessanti, e una di queste era appunto il nostro spettacolo Carmen Jazz Fantasy. Così si muove un mondo esterno di lupi cacciati da umani che scrupoli non hanno, e il lupo diventa agnello e porta il suono dell'autunno. Suona anche per me, gridano dall'esterno quando sentono un suono. Suona anche per me, ma il suono non giunge. Ascolta Carmen, ma da nessun luogo giunge il suono dell'autunno. Che Carmen conduca il suo destino. Ascoltato un estratto di Carmen Jazz Fantasy e ora io lascerei invece la musica di Stupor Mundi, che è lo secondo spettacolo che è andato in scena quest'estate a Palestrina in un museo meraviglioso, perché abbiamo veramente avuto un palcoscenico che era il Tempio della Dea Fortuna che ci ha accompagnato in questo percorso anche a livello scenografico, perché purtroppo in radio non possiamo farvi vedere le immagini, ma vi garantisco che era uno stupore, proprio come il nostro Stupor Mundi, che però in questo spettacolo di Valerio Vicari ha preso un'altra connotazione, una forma un po' diversa da come siamo abituati a vedere Federico II, lo stupore del mondo. E insomma, l'abbiamo raccontato, ci sono i nostri attori, bravissimi, e li voglio citare assolutamente perché sono Duccio Lombardi, e poi abbiamo avuto Emanuele Tumolo nella parte di Federico II, invece Duccio Lombardi era il nostro intervistatore, colui che ha pilotato, diciamo, un po' il destino di Federico II in questo spettacolo. E poi abbiamo Deborah Vinci che ha interpretato il doppio ruolo della regina Iolanda e di Bianca Lancia, che sono state due delle donne di Federico II. La prima, la regina Iolanda, è stata sua moglie, e invece Bianca Lancia non era il suo vero amore, ecco, non ha avuto un ruolo ufficialmente preponderante, ma in realtà ufficiosamente è stata la donna che lui ha amato. Quindi Deborah Vinci in questo duplice ruolo, poi appunto le musiche sempre di Alessandro Meacci e il testo edito anche da ETS di Valerio Vicari. Bellissimo testo, devo dire, una cosa molto innovativa anche da portare in scena oltre che da leggere in un libro. E quindi io lascio la parola alla musica e poi a Valerio Vicari che ci racconta un po' questo percorso del suo stupore del mondo. Stupor Mundi nasce dal vero e proprio stupore seguito alla visita a Castel del Monte, alla scoperta di alcuni aspetti privati della vita di Federico II che mi avevano colpito moltissimo. Federico II è un personaggio straordinario che tutti conosciamo, però al di là di questa storia incredibile c'è anche una storia umana estremamente interessante, ma di questa storia umana noi abbiamo pochissimo, non abbiamo diari personali, corrispondenza privata come abbiamo poi di tanti personaggi delle epoche successive. Quindi queste persone sappiamo che lui ha avuto delle mogli, ha avuto dei collaboratori importanti, ma le conosciamo per le loro azioni, per i fatti storici, ma non sappiamo le persone, i cuori, non conosciamo i cuori che erano dietro questi fatti. E il tentativo di Stupor Mundi era quello di raccontare queste persone, quindi raccontare sì i fatti, ma non limitarsi a un elenco, a una lista, diciamo, di cose che sono successe, cercare di raccontare le persone. E Erika Salvengo e gli interpreti di queste prime rappresentazioni, credo, sono riuscite in questo scopo, ovvero hanno dato un'anima a questi personaggi, hanno dato un senso al testo proprio nella maniera più autentica, cercando anche di caratterizzare, di dare un cuore che fossero appunto dei personaggi a tutto tondo, che andassero oltre, diciamo, la grandezza o anche la pochezza di certe azioni, di certi fatti storici, per arrivare a persone, per tornare ad essere persone come siamo tutti noi, con le nostre bellezze, anche con tante, tante miserie e piccolezze. Ecco. Questo ha fatto Erika e credo che ci sia riuscita benissimo a raccontare delle persone in carne ed ossa e non delle figurine di un album, delle sculture, delle immagini prive di anima. Siete un mostro, un uomo ignobile. Vi siete approfittato di mia cugina Anais e non ve ne pentite minimamente. Aveva ragione Papa Gregorio a dire che siete l'anticristo. Non c'è un minimo di decenza e di moralità in voi, non c'è nessun senso di giustizia. Giustizia! Davvero voi venite qui a parlare di giustizia, mia signora? Ma non sapete forse che la giustizia non è altro che violenza di una parte sull'altra mascherata per renderla accettabile, digeribile alla maggioranza? Viene travestita con tuniche, cappelli e corone, ma è soltanto la prevaricazione violenta di una parte sull'altra. Abbiamo ascoltato la voce di Valerio Vicari, autore del testo Stupor Mundi, e poi un altro estratto dal nostro spettacolo. Andiamo adesso ad ascoltare l'ultimo pezzetto di Stupor Mundi che effettivamente va a concludere, la nostra storia ed è veramente una chicca questo spettacolo. È stato replicato anche con Roma 3 Orchestra, che ci tengo a citare assolutamente perché tutti i musicisti che avete sentito suonare sono di Roma 3 Orchestra, e quindi li ringraziamo tantissimo per l'impegno e per la passione che hanno messo in questo progetto, perché non è stato facile effettivamente, quindi ci teniamo a ringraziarli moltissimo. I ragazzi di Roma 3 Orchestra sono fantastici, e ci tengo anche a citare le case editrici che hanno messo tra le loro produzioni editoriali i tre spettacoli, perché tutti e tre, sia Carmen Jazz Fantasy, sia Stupor Mundi, sia Cleopatra, sono edite da Multiforce e da Agenda Edizioni Musicali. Si assumano loro la responsabilità di portarci quest'altro campione della fede in paradiso. Per quanto mi riguarda, dopo aver deciso di caricarci Giulio Cesare, Carlo Magno e Carlo V, ho detto basta, lo Stupor Mundi lo lascio volentieri a voi, anche la giustizia celeste ha i suoi limiti. Andiamo a parlare ora dell'ultimo spettacolo del trio di quest'estate autunno, che è andato in scena appunto con l'accompagnamento di nuovo di Agenda, di Roma 3 Orchestra, di una serie di realtà importanti veramente come il Festival d'Autunno, e siamo andati in scena al Teatro Politeama di Catanzaro, al Teatro Palladium di Roma. Quindi ringrazio tutte queste realtà veramente, perché è stato un viaggio meraviglioso quello di Cleopatra. Ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato, non li posso citare tutti perché sono veramente tantissimi, ma ci tengo a far parlare, a dar voce ad alcuni di loro, tra cui il nostro grande maestro direttore d'orchestra Massimiliano Caldi, che andiamo ad ascoltare subito, e con il suo contributo, insomma, diciamo che ha veramente messo in piedi l'opera. Senza di lui sarebbe stato impossibile. Quindi lasciamo la voce di Massimiliano Caldi, che ci racconta un attimo che cosa è successo in questa creazione di Cleopatra. Dunque, premetto che per me è un grande onore, una grande emozione tornare a parlare di Cleopatra. È un'opera sicuramente fuori dagli schemi, sotto tutti i punti di vista, per il modo in cui è scritta, per i fini che si ripropone, per gli esiti sonori, sia strumentali sia vocali, per i timbri che vengono prodotti dalla scrittura di Alessandro Meacci, per le cose che vengono richieste anche alla regista, che si trova sicuramente di fronte a un lavoro, come ho già detto, totalmente anticonvenzionale, fuori dagli schemi. Il percorso è stato lungo per me, il lavoro con l'orchestra è stato piuttosto complesso, ma tutto molto veloce, anche con i cantanti, perché non abbiamo avuto moltissimo tempo, come succede sempre. Con il cast, in particolare con l'orchestra, ho cercato di riprodurre esattamente quello che era la partitura. Bisogna sempre un po' così cercare di vivere ed immaginare come poi sarà all'atto pratico, per cui sono comunque partito sempre dal segno scritto. Il risultato è stato pienamente goduto, devo dire, a Roma la seconda serata, dove forse veramente ho la presunzione di dire che ho capito finalmente tutto. Ecco, adesso posso immodestamente, spero di no, ma dire che la partitura finalmente è metabolizzata, per cui siamo pronti per riprenderla, anzi auspico che venga ripresa e ancora più, insomma, goduta e capita ancora più a fondo. Abbiamo ascoltato due estratti dall'opera Cleopatra, uno era un solo proprio di Jennifer Schures, la nostra Cleopatra, e poi c'era questo momento corale con i nostri cantanti in scena e li ringrazio tutti veramente tanto perché sono stati fenomenali. A questo punto io lascerei la parola però a un altro dei protagonisti di Cleopatra, perché noi dobbiamo sicuramente continuare i ringraziamenti e quindi ringraziare la sovrintendente del Festival d'autunno del Teatro Politeama di Catanzaro, quindi Antonietta Santacroce. Dobbiamo ringraziare Valerio Vicari per Roma 3 Orchestra, perché oltre ad aver creato questo cast fantastico e aver messo insieme tutta la parte musicale, insomma, a livello proprio organizzativo di creazione dell'evento, è anche stato di grande supporto, Valerio, quindi grazie. E poi dobbiamo ringraziare però questa ultima voce, che non è assolutamente ultima, ma è il nostro attore in scena, perché anche in Cleopatra abbiamo avuto una parte attoriale importante, che è stato il filo conduttore di quest'opera e che Alessandro Meacci ha fortemente voluto nella veste di Anton Giulio Onofri, che ha interpretato Plinio il Vecchio. Quindi io gli lascio la parola, perché abbiamo chiesto anche un suo contributo audio che secondo me era fondamentale, e poi gli lascio la parola in un secondo momento perché lo andiamo ad ascoltare in scena dopo che lui ci ha raccontato questo suo incipit di percorso teatrale, e lo andiamo ad ascoltare in scena durante la Cleopatra. L'opera di Alessandro Meacci, Cleopatra, è andata in scena a Catanzaro e a Roma in due serate quasi consecutive. Quindi viva Alessandro, che ci è riuscito, e soprattutto perché il risultato artistico è di qualità molto alta. Alessandro mi guarda e mi fa: Anton Giulio, lo fai tu Plinio il Vecchio? E io dissi: guarda Alessandro, no, no, non esiste proprio, io non ho mai fatto l'attore in vita mia, non sono proprio, ma no, mi spiace, non esiste proprio, insomma. Sì, in realtà una prova attoriale l'avevo già data nella mia vita, ed era una mia partecipazione ad un film che si chiama Giulia di Ciro De Caro, uscito al cinema 3-4 anni fa. Ma un conto è girare una scena di un film dove, se ti sbagli, riprendi, sono tutti a tua disposizione, insomma, ecco, non, recitare in un palcoscenico davanti ad un pubblico che ti guarda, le luci che ti accecano, eccetera, non l'avevo assolutamente mai fatto. Eppure è andata bene, ecco, è andata bene, anche perché naturalmente Alessandro, che ci ha visto giusto evidentemente, mi ha anche affidato alle mani sapienti di la bacchetta sapiente di Massimiliano Calde, il direttore d'orchestra, che mi dava tutti gli attacchi giusti e perfetti e mi ha fatto sentire a totale mio agio, ma anche naturalmente ad Erika Salbego, la regista dello spettacolo, che mi ha cucito addosso praticamente una specie di cuscino di carezze che mi ha fatto proprio, mi ha vezzeggiato per tutta quanta la mia prestazione, per cui io mi sono sentito veramente tranquillissimo a casa, molto ben sostenuto e ben sorretto. Ho ricevuto anche molti complimenti, quindi non lo so, insomma, che forse dovrei pensare di abbracciare anche questa nuova carriera. Il mio nome è Gaio Plinio II. prefectus classis misenensis, comandante in capo della flotta imperiale di Roma Augusta. Sono colui che ha scritto la Naturalis Historia, in 37 volumi, che discettano di paesi del mondo e dei loro luoghi, di mari e di terre, di storie, di popoli e di genti, di animali e piante d'ogni specie, di cause et cure delle malattie d'ogni sorta, dei minerali e di come si forgiano i metalli, dell'accuratezza e bellezza di palazzi e di città, di decori, di statue e di mosaici, di dipinti e di venerazioni di Io a questo punto vi saluto per questa settimana. Abbiamo concluso e abbiamo concluso anche questo tour estivo autunnale con i nostri spettacoli, con le nostre nuove produzioni che sono veramente, secondo me, eccezionali. Parlo sicuramente, sono di parte, ma credo che sia così e non lo penso solo io, perché insomma la critica, il pubblico, gli addetti ai servizi hanno risposto in maniera veramente molto positiva. Quindi intanto risaluto Alessandro Meacci e lo ringrazio per l'enorme lavoro che abbiamo svolto insieme e che ha portato avanti con veramente dedizione e passione. Quindi grazie Ale di tutte queste tue meravigliose idee. E poi io saluto anche i nostri ascoltatori, ci risentiamo la settimana prossima con Dedicato su Radio Città Fujiko alle 13. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e comunque non per questo non ce l'ha.